Steso sul lettino, odorante di spigo, Anania pensava continuamente al suo segreto. E se Maria Obinu era lì? Se era lei, così vicina e così lontana, qual filo misterioso lo aveva condotto fino a lei, fino al guanciale su cui ella doveva qualche volta piangere ricordando il figliuolo abbandonato? Che strana cosa la vita! Egli era dunque giunto così al suo destino, solo per forza di una volontà misteriosa che lo aveva guidato quasi a sua insaputa, ma non era pazzo dunque. Ah, che sciocchezza, che puerilità! No, non era lei, non poteva essere lei, ma se lo era? Se ella già sapeva di essere vicina a suo figlio, mentre gli si dibatteva nel dubbio? No. No, non poteva essere lei. Una madre non può non tradirsi, non può non gridare nel rivedere suo figlio. Era assurdo. Ah, sciocchezze. Sciocchezze, idee convenzionali. Una donna sa dominarsi, anche tra le più violente emozioni. E sa poi che aveva abbandonato e buttato via la sua creatura. Appunto per questo doveva tradirsi, gridare, sussultare. Una madre è sempre una madre, e poi Olì, una selvaggia, una semplice figlia della natura, non poteva aver assimilato la perfidia delle donne di città, tanto da fingere come una commediante, da sapersi dominare così. Impossibile. Era assurdo. Maria Obinu era Maria Obinu, simpatica donna, mite, incosciente, che aveva avuto la fortuna più che la forza di emendarsi. Non poteva essere lei. Ma intanto egli ricordava la prima notte passata a Nuoro e il bacio furtivo di suo padre, e di momento in momento aspettava che l'uscio si aprisse e un'ombra si avanzasse nel chiarore della lampadina e un bacio rivelatore gli sfiorasse la fronte. E se ciò fosse, che farei io? Si chiedeva trepidando. I rumori della città si affievolivano, si allontanavano, quasi ritirandosi anch'essi, stanchi, verso un luogo di riposo. Anania sentì rientrare i tardivi inquilini, poi tutto fu silenzio nella casa, nella via, nella città, ed egli vegliava, vegliava ancora. Ah, forse quella lampadina? Ora la spengo. Si alzò. Un rumore, un fruscio, e l'uscio che si apre? Oddio! Egli si gettò nuovamente sul letto, chiuse gli occhi e attese. Il cuore e la gola gli pulsavano febbrilmente, ma l'uscio rimase chiuso ed egli si calmò e rise di sé. Però non spense la lampadina. 4. Roma, 1° giugno. Margherita mia. Ricevo in questo momento la tua lettera e rispondo subito. Sono un po' stordito, sai, in questi giorni ho almeno una ventina di volte preso in mano la penna per scriverti senza riuscirci, eppure ho tante cose da dirti. Ho cambiato casa. Sto presso una signora sarda che dice di essere nata a Nuoro. È una buona donna, simpatica, molto devota. Ha per me delle cure veramente materne, tanto che mi ha dato la sua camera in attesa della partenza di una bellissima signorina inglese che deve cedermi la sua. Questa Miss rassomiglia a te in modo straordinario. Ti scongiuro però di non essere gelosa. Primo, perché io sono pazzamente innamorato di una signorina nuorese, e secondo, perché Miss deve partire fra 8 giorni. Terzo, perché è matta dalle gare, quarto perché è fidanzata e quinto perché io sono sotto la salvaguardia di tutte le sante e i santi del cielo appesi alle pareti della mia camera, nonché delle anime sante del purgatorio illuminate giorno e notte da una mariposa. Presso la mia nuova padrona abitano altri stranieri che vanno e vengono e un sarto piemontese elegantissimo e coltissimo. E un commesso viaggiatore che per le bugie che dice mi ricorda il colendissimo signor Francesco Carchide di Nuoro, tuo sfortunato pretendente. La signora Obinu tiene poi una vecchia cuoca sarda che sta a Roma da oltre 30 anni ed ancora non ha appreso l'italiano. Povera vecchia zia Barbara, essa è nera e piccina come una jana. Conserva gelosamente nel baule il suo costume natio, ma veste un ridicolo abito comprato a Campo dei Fiori. Spesso io vado a trovarla e nella cucina buia e torrida essa mi domanda notizie delle persone del suo paese e crede che il mare sia sempre in tempesta come l'unica volta in cui ella lo attraversò. Per lei Roma è un luogo dove tutte le cose sono care e dove si può morire da un momento all'altro investiti da una vettura. Mi domandò se da noi si fa ancora il pane in casa. E risposi di sì, ed essa si mise a piangere, ricordando gli scherzi e il divertimento dei giorni nei quali si cuoceva il pane in casa sua. Poi Poi volle sapere se i pastori mangiano ancora seduti per terra sotto gli alberi. Come sospirava, ricordando un banchetto di Pasqua a cui prese parte 40 anni or sono in un ovile del Goceano. Qui fa già molto caldo, ma verso sera di solito l'aria si rinfresca. Io passeggio lungo le rive del Tevere e sto ore ed ore a guardare l'acqua corrente, rivolgendo a me stesso delle domande perfettamente inutili. Nelle sere tranquille, il gran fiume è tutto latteo e riflette i lumi, i ponti, la luna, come un marmo levigato. Io rassomiglio il corso perenne dell'acqua al mio amore per te, così continuo, silenzioso, travolgente, inesauribile. Perché tu non sei qui con me, Margherita mia? Già, tutte le cose mi sembrano più interessanti quando io le guardo pensando a te. Ah, come dunque mi parrebbero belle se potessi vederle riflesse dai tuoi occhi adorati. Ma quando dunque? Ma quando si potrà avverare il sogno tormentoso e delizioso delle anime nostre? In certi momenti mi pare impossibile che io possa vivere ancora tanto tempo diviso da te, ed uno spasimo indicibile mi fa tremare il cuore. Poi trasalisco di gioia al pensare che fra 2 mesi ci rivedremo. Oh mia Margherita, mio fiore adorato, io non so esprimerti ciò che sento e mi pare che nessuna parola umana potrebbe esprimerlo. È un fuoco continuo che mi arde e mi divora. È una sete inesprimibile che una sola fontana potrà estinguere. Io sono così solo nel mondo, Margherita. Tu sei tutto il mio mondo e quando io mi smarrisco tra la folla, in un mare di gente sconosciuta, basta che pensi a te, perché l'anima mia vibri d'amore per tutti gli ignoti esseri che mi circondano. E intorno a me senta vibrare l'anima della moltitudine come un mare sonoro. Quando ricevo le tue lettere provo una felicità così intensa che mi dà le vertigini. Mi pare d'essere giunto alla cima di una montagna e che debba appena stendere la mano per sfiorare le stelle. È troppo, ho quasi paura, paura di precipitare in un abisso, paura di essere incenerito dal contatto degli astri vicini. Che accadrebbe di me se tu mi venissi a mancare? Ah, tu non sai, tu non puoi capire che bestemmia pronunzi quando mi scrivi che sei gelosa delle donne che io posso incontrare qui a Roma. Nessuna donna può rappresentare per me ciò che tu sei e rappresenti. Sei la mia vita stessa, sei il passato, la patria, la razza, il sogno. Riprendo la lettera tutto stordito da una confidenza fattami da zia Barbara pochi minuti or sono. La vecchietta entrò qui con la scusa di portare dell'acqua. Era tutta arrabbiata con la padrona e cominciò a parlar male di lei e mi disse che la Obinu ha un passato tenebroso, che ha abbandonato in Sardegna 2 suoi figliuoli e che adesso continua ad avere qualche relazione equivoca. Anania interruppe di nuovo la lettera di cui aveva scritto le ultime righe sotto l'impulso di un improvviso stordimento. Sì, pensò, io sono troppo vicino alle stelle. E non vedo l'abisso dove ineluttabilmente devo cadere. No, no, no, no, disse poi a voce alta, disperatamente scuotendo la testa. Perché mi ostino? Essa può essere mia madre e non si rivela a me per continuare a vivere nel vizio. Egli singhiozzava senza lacrime, balbettando parole sconnesse e scuotendo follemente il capo, ma ad un tratto balzò in piedi, pallido, rigido, con gli occhi vitrei. Bisogna uscire, bisogna che io sappia. Ma perché questa lampada accesa? Perché questi quadretti? Perché le continue preghiere? Ebbene, appunto perciò. Ma io ti saprò smascherare, anima perduta, io ti ucciderò. I suoi occhi balenavano d'odio, ma all'improvviso tremò e si lasciò nuovamente cadere seduto e batté la fronte sul tavolo. Oh, avrebbe voluto spaccarsi la testa, non pensare più, dimenticare, annullarsi. Si sentì vile, gli parve d'essere viscido e nero, d'essere carne della carne venduta di sua madre, anch'egli delinquente, misero e abietto. Ricordi tumultuosi gli passarono nella mente, rammentò i generosi propositi tante volte accarezzati, il sogno di cercarla e di redimerla, la pietà infinita per l'incoscienza e la irresponsabilità di lei, l'orgoglio che gli provava nel sentirsi così pietoso, la sete di sacrificio. Tutto menzogna. Basta un vago indizio dato da una vecchia rimbambita per ridestargli nell'anima una tempesta di fango e suggerirgli l'idea del delitto. Tutto illusione, tutto sogno in questa cosa strana che è la vita. E se fosse illusione anche ciò che penso adesso? Se io mi ingannassi, se Maria non fosse lei? Ebbene, se non Maria è un'altra. Concluse disperato. Vicina o lontana, ella esiste e mi chiama e io devo ritornare sui miei passi, ricominciare, ritrovarla viva o morta o fosse morta. Attese il ritorno della padrona e per calmarsi cercò di analizzare la strana passione che lo tormentava, ripetendo a se stesso che la maggior sua pena proveniva dal crudele contrasto dei due esseri che formavano lo sdoppiamento del suo io. Uno di questi due esseri era un bambino fantastico, appassionato e triste, col sangue malato. Era ancora lo stesso bambino che scendeva la montagna natia sognando un mondo misterioso, lo stesso che nella casa del mugnaio aveva per lunghi anni meditato la fuga senza compierla mai, lo stesso che a Cagliari aveva pianto, credendo che Maria Rosa potesse essere sua madre. L'altro essere, normale e cosciente, cresciuto accanto al bambino incurabile, vedeva la inconsistenza dei fantasmi e dei mostri che tormentavano il suo compagno. Ma per quanto combattesse e gridasse, non riusciva a liberarlo dalla sua ossessione, a guarirlo dalla sua follia. Una lotta continua, un crudele contrasto agitava notte e giorno i due esseri, e il bambino fantastico e illogico, vittima e tiranno, riusciva sempre vincitore. Egli voleva sapere, voleva scoprire, voleva raggiungere il suo intento e soffriva della vanità della sua ricerca e della speranza di arrivare al suo scopo. Molte volte Anania si era chiesto se libero dall'amore per Margherita egli avrebbe sofferto ugualmente in questa sua triste ricerca e sempre si era risposto di sì. La Obinu rientrò verso sera. Signora Maria, disse Anania aprendo l'uscio, venga, devo dirle una cosa. Ella entrò e si buttò a sedere accanto a lui. Ansava per le scale salite di corsa. Era insolitamente rossa con la fronte lucente di sudore. Perché sta al buio? Che cosa ha da dirmi, signora Anania? Si sente male? La sua voce era tranquilla e di nuovo egli sentì cadere i suoi sospetti e gli parve ridicolo fare una scena a quella donna stanca che doveva apparecchiare la tavola per i suoi pensionanti. 5. Era vicino il giorno della partenza. Zia Barbara, diceva lo studente alla vecchia serva che preparava il caffè, come sono felice! Fra pochi giorni, addio, mi pare di avere le ali. Adesso salto sulla finestra e faccio sci e via, spicco il volo e sono in Sardegna. Ah! Gridò la vecchia, comicamente spaventata. Non montare sulla finestra, cuore mio, bada che caschi! Ebbene, datemi una tazza di caffè allora. Com'è buono il vostro caffè! Solo mia madre a Nuoro riesce a farlo altrettanto buono. Volete venire con me a Nuoro? La vecchia sospirò. Ah, se non ci fosse stato il mare! Sei molto ricco? Altro! Quante tanche hai? 7 o 8, non ricordo bene. E alveari? Ne hai? E servi pastori? Tutto! Tutto, zia Barbara, ho tutto! Ma allora perché studi? Perché la mia innamorata vuole che io diventi dottore. E chi è la tua innamorata? La figlia del barone di Baronia. Ah, vivono ancora i baroni di Baronia. Io ho sentito narrare che nel loro castello si aggirano i fantasmi. Una volta un taglialegna passò la notte sotto le mura del castello e vide una dama con una lunga coda d'oro che pareva una cometa. Oh, Nostra Signora mia, del buon consiglio, tu mi rovini. Bada, che ti farà male tutto questo caffè. Raccontate dunque, zia Barbara. Quando il taglialegna vide la dama, cosa fece? Zia Barbara raccontava, confondeva le leggende del castello di Burgos con le leggende del castello di Galtellì, mischiava ricordi storici diventati oramai tradizioni popolari con avvenimenti accaduti durante la sua lontana infanzia. E in Nuages, poi, quanti tesori nascosti! Sai, quando i Mori venivano in Sardegna per rapire le donne e gli armenti, i sardi nascondevano le monete nei Nuages. Anania pensava a suo padre e anche ultimamente gli aveva scritto pregandolo di visitare i musei dove si conservano le antiche monete d'oro. Una volta, ricominciava zia Barbara, io andai a cogliere spighe intorno a un nuraghe e mi ricordo come fosse oggi. Avevo la febbre e verso sera dovetti coricarmi fra le stoppie, aspettando che passasse qualche carro che mi conducesse in paese. Ed ecco cosa vedo. Il cielo dietro il nuraghe era tutto color fuoco, pareva un drappo di scarlatto. Ad un tratto un gigante sorse sul patio e cominciò a cacciar fumo dalla bocca. In breve, tutto il cielo si oscurò. Che paura, Nostra Signora mia, del buon consiglio! Ma ad un tratto vidi San Giorgio con in testa la luna piena ed in mano una leppa lucente come l'acqua. Tiffety taffety! Concluse la vecchia roteando un coltello da cucina. San Giorgio tagliò la testa al gigante e il cielo ritornò sereno. Ma era la febbre. Ebbene, sarà stata la febbre, ma io vidi il gigante e Santo Iorgi. Sì? Li vidi con questi occhi. Anania ascoltava con piacere i suggestivi racconti di zia Barbara. Sentiva nelle parole nostalgiche della vecchia esiliata l'aroma della terra natia, il soffio carico delle essenze selvagge dell'ortobene e del genargento. Ah, come mi divertirò queste vacanze, diceva alla vecchia. Voglio recarmi a tutte le feste, voglio visitare il mio paesello natio, voglio salire sul Gennargentu, su Monterasu, sui monti di Orgosolo. E lei non viene più in Sardegna? Chiese una sera a Maria Obino. Io? Ella rispose un po' cupa. Mai più. Perché? Venga qui alla finestra, signora Maria, guardi che bella luna. Ebbene, non le piacerebbe fare un pellegrinaggio alla Madonna di Gonare? Così, con una luna splendida, salire a cavallo, piano piano, pei boschi, pei dirupi, avanti, sempre avanti, mentre la chiesetta si disegna sul cielo, in alto, in alto, in alto. Maria scuoteva la testa con indifferenza. Zia Barbara, al contrario, sussultava tutta e sollevava gli occhi, quasi per cercare con lo sguardo la chiesetta campeggiata sull'azzurro tenero del cielo lunare, in alto, in alto, in alto. Salvo lei e le persone che le vogliono bene, maledì Maria, e salvo le chiese e i devoti di Maria Santissima, ma il fuoco passi per la Sardegna prima che io ci ritorni. Anania interrogava spesso zia Barbara sul passato di Maria e sul perché dell'odio di questa per il paese natio. Ah, cuoricino mio, ella ha ben ragione, laggiù l'hanno assassinata. Ma sei ancora viva, zia Barbara? Ah, tu non sai, è meglio assassinare una donna che tradirla. Egli pensava a sua madre e il dubbio, la chimera e il sogno lo riafferravano tutto. Zia Barbara, voi avete detto che ella è stata tradita da un signore? Ditemi dunque, come si chiama quel signore? Cercate di saperlo. Ditemi, ha delle carte la signora Maria? Io potrei aiutarla a cercare il suo seduttore. Perché? Perché l'aiuti? Ma essa non ha bisogno d'aiuto, ha dei soldi, sai, lasciala in pace piuttosto, perché ella non vuole che si ricordi la sua sventura. Non una parola, sai? Mi strangolerebbe se sapesse che io parlo di lei con te. E dei suoi figli non si sa niente? Ma pare sia una figlia solo, credo stia coi parenti di lei. Maria manda spesso denari in Sardegna. Ma Anania non abbandonava l'idea che Maria e Olì potessero formare la stessa persona, eppure bisogna sapere. Pensava camminando distratto per le vie animate da una folla sempre più scarsa. Se non è lei, perché mi tormento? Ma dov'è lei? Che fa? È vicina o lontana? Al fragore della città, a questo rombo che mi sembra la voce di un mostro dai mille e più mille teste, è mescolato il respiro, il gemito, il riso di lei? E se non qui, dove? Una notte gli ebbe un po' di febbre e nell'incubo gli parve di vedere più volte la figura di Maria curva sul suo guanciale. Era delirio o realtà? Il chiarore della lampada rischiarava la camera, egli vedeva altre figure fantastiche, ma pensava: ah, ho la febbre! E solo la figura di Maria Obinu gli sembrava reale. Visioni apocalittiche sorgevano, si incalzavano, si mescolavano, sparivano come nuvole mostruose intorno a lui. Fra le altre cose gli vedeva il nuraghe col gigante e il San Giorgio del sogno febbrile di zia Barbara. Ma la luna si staccava dalla figura del santo e volava sul cielo. Altre due lune, rosse e immense, la seguivano. Era imminente un cataclisma. Una folla enorme si pigiava su una spiaggia di mare in tempesta. Le onde erano cavalli marini che lottavano contro spiriti invisibili e ad un tratto un urlo salì dal mare. Ah! Anania sussultò d'orrore, aprì gli occhi e gli parve di averli azzurri. Che stupidaggini, pensò, ho la febbre. Maria Ubino riapparve nella camera, si avanzò silenziosa, si curvò sul lettuccio. Allora Anania cominciò a delirare. Ti ricordi, mamma? Tu mi insegnavi la piccola poesia. Luna, luna, porzedda luna. Perché non vuoi dirmi che sei la mia mamma, tu? Dimmelo dunque, tanto io lo so che tu sei la mia mamma, ma devi dirmelo anche tu. Ricordi l'amuleto? Possibile che tu non ricordi quella mattina quando scendevamo e il fringuello cantava fra i castagni umidi e le nuvole volavano via dietro il Monte Gonare? Ma sì che ti ricordi, dimmelo dunque, non avere paura, io ti voglio bene, vivremo assieme, rispondi. La donna taceva. Il sofferente fu assalito da un vero spasimo di tenerezza e d'angoscia. Madre, madre, parla! Non farmi soffrire oltre. Sono stanco ormai. Se tu sapessi che pena. Tu sei io lì, non è vero? È inutile che tu dica il contrario. Tu sei io lì. Che cosa hai fatto sinora? Dove sono le tue carte? Ebbene, non parliamo del passato. Tutto è finito. Ora non ci lasceremo più. Ma tu vai via. No! No, Dio, aspetta, aspetta, non andartene! E si sollevò sul letto con gli occhi spalancati mentre la figura si allontanava lentamente e scompariva. Soltanto pochi minuti prima di partire, prese la solenne decisione di lasciare in sospeso fino al ritorno tutte le ricerche e tutti i vani progetti. Si sentiva stanco, disfatto, il caldo, gli esami, la febbre, le fantasticherie lo avevano esaurito. Mi riposerò, pensava, preparando rapidamente la valigia e ricordando i lunghi preparativi della sua prima partenza da Nuoro. Ah, quanto vorrò dormire queste vacanze. Non voglio diventare nevrastenico. Salirò sulle montagne natie, sul Gennargentu vergine e selvaggio. Da quanto tempo sogno questa ascensione? Visiterò la vedova del bandito, il fraticello Zuanne, il figlio del fabbricante di ceri, il cortile del convento? E quel carabiniere che cantava a te questo rosario? Il pensiero poi di rivedere fra poco Margherita, di immergersi tutto nel fresco amore di lei come in un bagno profumato, gli dava una felicità così intensa che lo faceva spasimare. Pochi momenti prima della partenza, zia Barbara gli consegnò un piccolo cero perché lo offrisse per lei alla Basilica dei Martiri a Fondi e Maria gli diede una medaglia benedetta dal pontefice. Se lei non la vuole, miscredente, la porti alla sua mamma, gli disse sorridendo un po' commossa. Addio dunque, buon viaggio e buon ritorno. Si ricordi che la camera resta a sua disposizione, faccia da bravo e mi scriva subito una cartolina. Arrivederci, arrivederci, egli gridò dal basso della scala mentre Maria, curva sulla ringhiera, lo salutava ancora con la mano. Figlio del cuoricino mio, disse zia Barbara accompagnandolo fino alla porta. Saluta per me la prima persona che incontri in terra sarda e buon viaggio. E ricordati del cero. Lo baciò lievemente sulla guancia, piangendo, ed egli fu tentato di risalire le scale per vedere se anche Maria Obino piangeva. Poi sorrise della sua idea, abbracciò zia Barbara, chiedendole scusa se qualche volta l'aveva fatta stizzire, e si allontanò. Tutto sparve. La vecchia che piangeva il suo esilio dalla patria diletta, la strada melanconica, la piazza in quell'ora deserta e ardente, il Pantheon triste come una tomba ciclopica e Anania, col viso accarezzato dal vento di ponente, provò un senso di sollievo, come svegliandosi da un incubo.